la manifestazione della scuola. Scusami Aldo, sì, non ti preoccupare. Allora mi rendo soltanto. Ciao Luca, soltanto brevemente, buonasera a tutti, siamo in diretta streaming su Ustream e volevo. Questa è la terza riunione sulla disabilità, volevamo dare. Inizialmente delle informative tecniche praticamente che troverete sulla pagina disabilità e dintorni Campania nella descrizione. C'è una sulla informativa sulla privacy, la legge 196/2003, e poi dopo anche che tutte le riunioni, cioè tutte le persone che parteciperanno alle nostre riunioni tramite la legge 633/41 articolo 96 sono consapevoli, diciamo, della pubblicazione del materiale audio, foto e video sulla pagina disabilità. Nel ringraziarvi diciamo tutti, buon lavoro e buona riunione. Ragazzi, siamo in diretta streaming. Possiamo incominciare diciamo la riunione salutando anche Luca Caprillo che è venuto e tutti i partecipanti. Ciao. Vai. Questa notizia la volevo condividere con voi che insomma il presso il comune di Livorno il Movimento 5 Stelle ha approvato un consiglio di istituzione di un ufficio di un garante delle persone con disabilità. Istituita in osservazione della Convenzione ONU delle persone con disabilità recepita dalla legge numero 18 del 3 marzo del 2009. Costui sarà scelto dal sindaco, ma non deve essere un politico o uno che fa parte dell'amministrazione comunale. Su proposta del Consiglio dovrà avere una conoscenza dei temi approfondita e dei problemi sociali del mondo della disabilità. Io volevo soltanto. Questo poi non me ne sono andata a vedere. La legge, la legge c'è qui, oltre a quelle di garantire appunto il rispetto della normativa vigente, però di solito ci sono anche tutti gli iscritti. C'è la legge, sicuramente uno statuto di questo. Allora si deve. È il 3 marzo 2009. Una ricerca di sapere questa legge si va a approfondire perché può essere preso il tono perché può essere una legge regionale che cos'è come si spiega? Il comune di Livorno, il Movimento 5 Stelle ha approvato al consiglio l'istituzione di un ufficio del garante della compensa che sono è una struttura burocratica a cui hanno dato vogliamo anche a qua la legge numero 18 la legge non c'è nazionale. Questa è la 118 che ha sopperito la 104 e quindi ha non per dirtelo. Allora, legge 18. 118 esiste. Può essere 118. Perché quella è quella che ha sopperito la 104. Può essere un errore di digitazione. No, anzi, quella è buona l'informazione. No, è buona. Solo può dire controllare se è 18 o 118. Che uno vede 18 io mi ricordo la 118 in quanto c'ho mio fratello che è psichico. Poi volevo sapere, ma la FAND che fa? Che è la confederazione di tutte queste benedette pletore di associazioni che per me sono un po' a delinquere perché non fanno niente, allora, fanno solo il tesseramento. Sono un'associazione. Però tu paghi l'iscrizione. Paghi qua e paghi là. La FAND che consorzia tutto. Costa ricercare. Da scavare. La FAND non l'ho mai letta, siccome io mi interessa perché ho problemi seri di mio fratello, perché poi i falsi invalidi nessuno li combatte, e gli invalidi ci tolgono l'accompagnamento e rimangono solo semi invalidi e chiam. Le associazioni che hanno, scusate il termine perché io sono napoletano, se ne strafottono proprio del problema dei disabili, i disabili a sua volta se ne fottono. Quindi ho usato uno stra e un fottono. Perché? Perché ti sapevo dice aspetti mi faccio pure l'associazione. E escono 1001 associazioni. Sono 880 associazioni. Non è bello questo, perché almeno ecco la FAND che doveva riunire tutti. Perché i principali sono ANMIC, ENS che sono i sordomuti e poi WIC che sono i ciechi. E l'ANMIC che sono i psicofisico-sensoriali. Però se noi mettiamo in scelta un'associazione si va a perdere. E giochiamo al gioco della politica e fanno 1001 poltroncina per comodi loro. Di fatto ci sono questi alcune sono sette, sono tutte. Giulio, volevo soltanto. No, prima che partite. Sì, no, volevo soltanto dirlo qua, anche in diretta, che diciamo avevamo parlato prima tra di noi, no, soltanto volevo accennare, soltanto per le persone che non ci avevano ancora visto, che questa è la terza riunione, diciamo, sulla disabilità. E poi noi avevamo, diciamo, già dalle precedenti due riunioni stabilito, diciamo, questo criterio. Scusami Angelo, sì. No, beh, mi mantieni tu Aldo, che mi inquadri un secondo, altrimenti parlo. Praticamente avevamo stabilito nelle precedenti due riunioni di muoverci su questo doppio binario, cioè sia quello della denuncia e sia quello della denuncia. Terza riunione, cioè, mi aggancio a queste due cose già dette, per poi dopo anche ribadire che laddove, diciamo, da tutte le utenze che poi parteciperanno diciamo, alle nostre successive riunioni, si riesca a stilare a livello propositivo un documento, oppure riusciamo a stilare un programma che riguarda la disabilità, potremmo poi in questo caso potremmo donarlo, poi magari mi veniva incontro anche Nando, con cui magari forse si può più venire incontro nel discorso. Cioè, pensavamo di poter poi donare questo, eventualmente questo documento, che stiliamo questo materiale. Ciao alla forza politica, che comunque se ne vorrà comunque fare carico per tutta la collettività. Correggimi se sbaglio, no, tu che cosa dici? È utile. Il problema è che tu, una volta compilato un documento programmato, a firma cittadini, associazioni, quello che vuoi, poi il Movimento 5 Stelle, a livello anche regionale, può assumere questo documento programmato come parte integrante del suo lavoro. E chi dirò tutto il suo lavoro? Comitato di lavoro. Non c'è nessun problema. No, anzi, secondo me proprio, come dire, il fatto di ribadire, di stilare questo documento programmatico, che tiri un po' le file di tutte queste iniziative, raccogliendo anche le esperienze di quanti partecipanti. È molto bello quello che hai detto, e mi trovo veramente, come dire, entusiasta su questa cosa, bravo Gianluca, cioè di regalarlo alle forze politiche che vorranno poi, mi sembra un'espressione efficace che mi piace molto, cioè di regalare questo lavoro programmatico, di iniziativa, certo, alle forze politiche che vorranno recepirlo. Mi piace molto e sono d'accordo con te. Grazie ragazzi, possiamo incominciare, autoregoliamoci stesso noi come tempo, cioè, a disposizione per parlare. Inizi tu, Angelo. No, niente, vabbè, noi già siamo, hai già iniziato tu, bene, hai inserito, noi rimanemmo con i due binari che già ben detto, sui una sulle denunce e l'altra su progetti, chiamammo l'altra volta, di cui poi dovevamo parlare della didattica inclusiva anche con Teresa, che aspettiamo Teresa che arriverà più tardi. Ciao Vala. Poi ci fu un altro punto, diciamo, molto importante, quello del PEBA, piano PEBA, che già ne abbiamo parlato prima, e quindi come farlo applicare in tutti i comuni, quindi fare questa modalità di applicazione per tutti i comuni, quindi un documento unico, non so in questo senso come vogliamo fare, qui lo dobbiamo decidere. Poi dovevamo parlare del fondo per disabile regionale, che ci dovrebbe essere un fondo, e capire questo fondo che contenuto ha proprio inconsistenza, perché altrimenti. E quali sono le voci delle ripartizioni? La cosa principale. Poi allo stesso tempo noi dovremmo fare, ricavando dai vari, diciamo, soggetti le problematiche, dalle problematiche delle proposte di legge, diciamo, da fare anche ai nostri parlamentari, io parlo poi per il 5 Stelle in questo caso, però non so, parlando di forze politiche poi potrebbero essere comunque delle proposte di legge che ben vengano, da dove partono. E niente, e poi diciamo da questa piattaforma programmatica, che noi volevamo fare proprio una piattaforma programmatica. Certo, al momento teniamo un wiki pubblico dove poter inserire proposte, denunce, si chiama Wikia e porta lo stesso nome della pagina. Non ho capito. L'altra volta? Non si poteva scrivere, nel Wikia. No, ma a me Antonio, diciamo, ha provato a scrivere senza neanche diciamo. È un wiki pubblico dove poi si possono inserire, siccome che ci sono molte abbiamo, cioè io ho inserito già tutta una serie di categorie, poi voi ne potete, ma ce ne sono per quelle sul piano finanziario, quello sul disagio, su vari tipi di disagio della disabilità, sulla sanità, sulla scuola, ce ne sono tante, però a seconda poi del vostro campo e della vostra professionalità potreste inserire o delle subcategorie a queste categorie, oppure poi dopo diciamo mettere proprio delle categorie nuove per poi andare a scrivere che cosa? Proposte, denunce. Altrettanto per quanto riguarda anche per esempio le denunce, mo io è una cosa stupida, l'altro giorno venendo nel centro direzionale trovai lo scivolo, diciamo, occupato da un camion, comunque io scattai un paio di fotografie, le ho messe, ma giusto per dire, allora no, potreste anche voi nel vostro tempo libero, laddove che vi trovate in situazione, state andando in ufficio, state andando a fare un servizio, qualche cosa, vedete qualche cosa di voi anomalo che potete al limite magari fotografare, se lo riuscite a fotografare poi lo pubblicate dicendo io mi trovavo qua a scuola, in ufficio, nel pullman, nel garage, nella cosa, e diciamo collaboriamo anche da questo punto, diciamo, di vista a livello di denuncia. Scusami Angelo, ti ho interrotto. Assolutamente no, poi parliamo della risoluzione settima commissione 31 luglio 2014 Serra 2 Movimento 5 Stelle, pare uno di una proposta, non mi ricordo. E poi ritorno sempre a per chiudere, volevamo fare un presidio, se ti ricordi, Gennaro, per diciamo con un camper, con qualcosa, o un gazebo tematico, diciamo, esatto, un po' che giriamo portando alla luce questa tutte le problematiche un po' della disabilità. Un gazebo tematico mi piace. Tipo, non so, per esempio una volta in una zona, una volta al mese. Creare anche un, forse non lo so, creare anche qualche volantino con le principali criticità, diciamo, sui problemi della disabilità, esatto. Dalle semplici, esatto, abbattimento delle barriere architettoniche a cose scolastiche, insomma, poi vediamo noi come lo vogliamo eventualmente stilare. E questo era, e quindi poi e così chiudemmo, quindi con questo presidio di lotta e informazione, e chiudemmo così. Adesso da qui partiamo di nuovo e devono aggiungere le proposte, diciamo. Certo, ma chi vuole di voi vuole insomma dire qualcosa? L'altra volta in una delle riunioni, la seconda, quella dell'equitazione, sì, psicoterapia, sì, Mi rendere tutto un po' più, perché secondo me quella può essere un'ottima fase di partenza. Sì, vabbè, questo è un progetto che io già faccio da anni all'interno proprio dell'istituto, della scuola dove insegno io, di pet terapia con l'uso però con l'uso del, non utilizziamo il cavallo, ma si può utilizzare anche l'asino, e quindi si chiama onoterapia, oppure anche i vari animali. Per me sarebbe stato importante fare, come dire, una sera, qualcosa di sociale, come la possiamo chiamare, un'azienda, diciamo, sociale, dove si portano gli animali, si portano anche, e così per comune fanno una cooperativa, una fattoria, ecco, chiamiamolo fattoria, poi hai un progetto in questa cosa? Io faccio il progetto a scuola, quindi con delle ore che la scuola deve realizzare, il progetto istituzionalizzarlo, oppure proprio far sì che diventa proprio, diciamo, una fattoria, però è meglio una fattoria, quindi individuare dei posti, come so, a Napoli. Già c'è qualcosa? Sì, l'ippodromo di Agnano, fa già c'è qualcosa, No, non è successo niente. sì, un po' della discussione. Antonio, ti vuoi far dare qualche salviettino per la caduta l'acqua? Qui però adesso bisognerebbe vedere a livello regionale cosa si può fare, a livello comunale cosa noi siamo tenuti di impegnare. Posso dire una cosa secondo me? Su questo tema secondo me è molto importante l'aspetto culturale, no? Noi parliamo di evoluzione culturale. Su questo in Italia, ma a Napoli in particolare modo, c'è molta inciviltà nei confronti di cosa abbiamo la disabilità, del rispetto dei diritti dei disabili, a partire dallo scivolo. Cioè, già se vai con Roma, già se vai a Pistoia, a Lucca, insomma, i bar c'hanno i scivoli, c'hanno gli uffici postali, c'hanno. Questo noi l'abbiamo detto con cioè, le queste sono cose elementari. Tutti le dicono, però secondo me ha fatto un grosso lavoro proprio culturale, quindi anche tutto questo lavoro che sta facendo Gennaro, che è molto encomiabile, dovrebbe essere valorizzato anche dai gruppi della comunicazione che pure ci sono nei 5 Stelle, no? So che il Meetup da anni, negli anni ha accumulato un'esperienza, non so, con Dario Carotenuto, altri, sulla capacità di fare dei video, di denuncia. Marescotti c'era pure. Insomma, ci sta un Gennaro Massotti. Ci sta una potenzialità verde del comune di Napoli. Cioè, quello si dovrebbe prendere in archivio. Ma ci sono altre persone che stanno nel Meetup, che non è che sono assenti. Cipollette. Che se lavorano da casa, lavorano anche al computer. Andrebbero coinvolte, andrebbero coinvolte secondo me da te, che è anche più tempo. Ma io per questo ho voluto creare per fare questa piattaforma Wikia, proprio perché è una piattaforma indipendente che diciamo non vincola la persona magari ad una partecipazione fisica, nel senso tante persone sono impegnate comunque con il lavoro, allora nel loro magari tempo libero, anche diciamo comunque da casa ti viene un'idea, una soluzione, hai letto, sì, però dice anche un'altra cosa, hai letto qualche informazione di far modo che questo lavoro abbia e anche un impatto mediatico, veicolato un impatto mediatico anche tramite internet, se non tramite la televisione, insomma non è così difficile, perché ormai siamo una forza politica. Quello che già è stato fatto, ma questo con uno scopo, non per fare pubblicità, non per fare pubblicità alle nostre città, vorrei precisare che la città cresca dal punto di vista della sensibilità nei confronti dei problemi della disabilità, perché se la città cresce, se cresce la cultura, poi si risolvono anche i problemi, i politici senza. Volevo solo precisare, scusami Mario, grazie, no, volevo io a scanso diciamo di equivoci anche per gli amici che magari ci seguono da casa, lo scopo principale delle nostre comunque riunioni è la massima partecipazione e coinvolgimento di tutta la cittadinanza attiva, quindi non è un qualche cosa soltanto, cioè, perché magari qualcuno anche da casa, ascoltando anche noi, soltanto diciamo magari la nostra terminologia nel senso del movimento, può pensare che insomma fa. Sia soltanto, no, non è una questione di problemi, è comunque siamo una, aperti, si sa che siamo aperti, ma voglio dire, si sa che è una questione di giusto che apro e chiudo la parentesi per dire che è una cosa di cittadinanza attiva, cioè non è soltanto un qualcosa che riguarda le persone che sono legate al Movimento 5 Stelle, è aperta e chiusa, tutti possono partecipare, cioè se vogliono dare un loro contributo, è una mano che ben vengano diciamo tutti quanti, no? Siamo aperti verso tutti e con tutti voi ci andremo a misurare diciamo confrontare, questo volevo dire. Ma soltanto un inciso, perché sono d'accordo sul fatto che la sensibilizzazione è importante, è un fatto culturale, poi ovviamente c'è la mannaia della legge che va rispettata, quindi bisogna sempre in ogni caso denunciare. Allora si potrebbe, per essere operativi e per mettere a frutto diciamo l'idea del gazebo tematico itinerante, che pure mi piace molto, si potrebbe organizzarlo questo gazebo itinerante come veicolo per sensibilizzare. Allora posso immaginare dei gazebo itineranti nelle varie municipalità, nelle zone, come presidio davanti agli ospedali, qualsiasi tipo di luogo dove c'è, diciamo, le persone che vanno sensibilizzate, con le volantine e poi dei video intervista a magari a delle persone disabili che vengono e ci raccontano i loro disagi, le loro storie, e poi quei video interviste possiamo metterli in pillole online e fare quello che sta dicendo Mario. Cioè questo potrebbe essere un coniugare in maniera intelligente, informata e ragionata, mobilizzando, ecco, facendo entrambe le cose. Non so, se siete d'accordo possiamo organizzarla questa cosa qua. Bisogna prendere i permessi, individuare i luoghi, prendere i permessi per il gazzetto e poi invitare magari qualche associazione al gazzetto stesso e preparare delle video imprese. O genitori particolarmente. O docenti di sostegno. Tutti. Perché è un corso di autoformazione, autoaggiornamento. Certo. Diventano delle famiglie sensibilizzate e poi possiamo fare diciamo un'aggressione virale sul web per sensibilizzare tutto qua. Certo, chiedo quello che stiamo dicendo. Posso, anzi, scuso che forse parlo di un argomento ora abbastanza nuovo, però purtroppo, come dicevo prima, devo andare. Però volevo fare un intervento su un discorso. A Napoli e in Campania, questo è un po' periodo di riprogettazione urbanistica e riprogettazione infrastrutturale che verranno a fronte di questi temi, verranno anche stanziati un bel po' di soldi dai fondi europei, eccetera eccetera. Sappiamo tutti benissimo, no? Progetto Bagnoli, progetto Napoli Est, progetto Porto, non solo, ma c'è anche tutta una serie di acquisti in atto per quello che riguarda anche treni, per quello che riguarda autobus. E allora forse secondo me sarebbe importante anche, a parte indagare se le gare già lo prevedono, ma comunque andare ad obbligare praticamente i singoli comuni e anche la regione a far entrare nei capitolati di gara tutto quelle che sono le possibili facilitazioni per le persone disabili. Per l'abbattimento delle barriere. Faccio un esempio: se ora stiamo partendo con l'acquisto di autobus per il comune di Napoli, se nella gara non è previsto che ci siano delle piattaforme per disabili, ci ritroveremo in uno tanti anni ancora sì. Senza. Come per esempio se stiamo partendo con il progetto oppure la costruzione della linea 1, la chiusura della linea 1, se non costringiamo a prevedere bandine e nuovi treni già adeguati alla salita e alla discesa di persone disabili, purtroppo ce li troveremo davanti per anni ed anni. Quindi l'idea è andare ad essere sicuri preventivamente che certe cose vengono fatte, e poi andare ad agire dopo è molto più dispendioso in termini economici ed è lunghissimo in termini di tempo. Quindi non sai se sono. No, non lo so ancora, vorrei questa è una cosa di. Lo stesso la ripavimentazione di Napoli che si farà, che è slittata da maggio a ottobre, prevedere pure le barriere architettoniche là che non è quella del lungomare, che poi è stata estesa, se l'ha detto oggi la televisione, che è slittata ad ottobre, e maggiormente pure non fare come è successo per via Scarlatti, tutto rispetto per il Vomero, ma stanno chiuse che le benedette strade che i poveretti possono usufruire, là è chiuso. Scusa, adesso per scendere nella pratica no ragazzi, ma andiamo tutti a ruota libera, no, per scendere nella pratica, cioè adesso noi come ci organizziamo per indagare su questi progetti, per questo è quello che no, questo è un argomento che porto praticamente fra mezz'ora. Lui sta andando in regione Campania, lui sta andando nei palazzi del potere, magari noi di Campania ci organizziamo come tavolo dei nostri trasporti per cercare di capire come sono state fatte queste gare e se è possibile andare a eventualmente, bravo, perché noi ci siamo proprio come obiettivo, ci siamo dati sin dall'inizio di quello che dicevamo a livello teorico deve corrispondere alla pratica, che poi per il disabile. No, scusa, devo darsi pure che mi sto preoccupando. No, ti stai preoccupando proprio giusto, perché spesso non. No, per caso che perché noi abbiamo anche nel settore turistico, tipo Pompei, che era stato previsto, però i disabili sono rimasti bloccati lì sulla piattaforma e non hanno potuto visitare. Così come le spiagge non sono attrezzate per... c'è anche un problema culturale, come dicevo io, oltre le leggi ci sono, non sono rispettate, sì. Proprio perché il cittadino non è sensibile. Ma effettivamente nella riprogettazione urbanistica che si andrà a fare, anche pare che sia prevista anche per tutta la costiera, anche del Salernitano, allora prevediamo anche le zone per... C'è tanto lavoro da fare. Sta Antonio che vuole fare un intervento. Esatto. Dice Antonio. No, ma voleva dire una cosa... Sì, sì, anche... intervenire liberamente. Vai, dici. Sto per alcuni parchi ci stanno gli scivoli per i bambini, no? Le giostrine per i bambini senza disabilità, però non ci sono a nessuna parte giochi per bambini disabili che hanno desiderio di andare su un'altalena. In altre città le vediamo, a Napoli non ce ne vediamo. Sì, ho visto anche io qualcosa del genere. No, in merito a questi giochi per i bambini, diciamo, certo. C'è, ma non ci puoi andare. La piattaforma alta così, quindi con la carrozzina. Sì, non dice Andrea. No. Buonasera. No, quello mo viene, no. Adesso guardando se ne sta andando. Mi dà anche lo stesso, guardate. Interessante. Lo dicevo come ritrovo. Interessante. Cioè, lo modo per fare una domanda per la finestra, via tagliare i tempi per l'erogazione e anche per l'avvistamento. Perché questo è un problema reale. Esiste dappertutto, ovviamente in ambato. Sensibilizzare proprio questa cosa, magari che ne so, network, poi ci abbiamo con internet, qualche articolo sul giornale, non lo so, tutte cose che dicevano per la legalità, per cominciare. Allora te ne fai carico di fare questa verifica. Vabbè, ci fai sapere. Vabbè. Ciao Nando, ci sentiamo. Mi raccomando, metti la camicia. Te ne vai, Maria Rosale? Ah, va bene, ciao ragazzi, ciao. Dice Andone, scusa. È abbreviare i tempi della burocrazia dell'erogazione delle visite mediche. No, ma lui ha fatto la legge contro la burocrazia, l'ha fatta l'altro ieri, se no l'ha fatta fa. Vale per tutto. E quella regionale viene demandata agli enti locali, sono gli enti locali che si devono sensibilizzare e stamana però da punta da capo. Quelli questo, bisogna sensibilizzare. L'ha messo come primo punto. Adesso andremo a vedere se nella pratica sarà attuata. Allora se si farà. Medico, ci sono persone che fanno causa secondo a violare di loro diritti, aspetto mesi, mesi e mesi. In metri sono 2-3 anni, hai ragione. Quella è la serie. Giusto, ma noi già ne parlavamo. Già ne parlavamo, questo è un problema di legalità e come intervenire per fare. Già ne abbiamo. C'è anche il problema di fumo. C'è anche il problema di fumo.